2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 13 giugno 2009. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, il nostro indirizzo digitale 2024@radio24.it. Potete scriverci per qualsiasi esigenza, per qualsiasi domanda o considerazione. Cercheremo poi di rispondere, come sempre, a tutti coloro che ci inviano il proprio messaggio. Troverete questa puntata sul nostro sito internet dalla prossima settimana. Tutte le informazioni per scaricare il file MP3 della nostra trasmissione sono su www.radio24.it. E come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Nella seconda parte di 2024 vi anticipo che parleremo di fotocamere digitali con una sorta di breve guida all'acquisto, naturalmente sintetica, fatta apposta per la radio. Faremo anche il punto della situazione in un mercato che sta vedendo la nascita di una categoria intermedia di prodotti tra le fotocamere compatte e le reflex. Molto interessante. In questa prima parte di 2024 parliamo invece dell'evoluzione delle tecnologie senza filo, le cosiddette tecnologie wireless. Potremmo fare una lista lunghissima. Beh, del resto la stessa radio in FM sfrutta una tecnologia wireless, ma come sapete noi facciamo spesso riferimento alle tecnologie legate alla rete internet, legate al trasferimento di dati. A conferma del successo di queste tecnologie e anche dell'esigenza che le persone hanno sempre più spesso di trovare un modo per collegarsi ad internet, anche McDonald's Italia ha annunciato e ha reso disponibile da qualche giorno in buona parte dei 382 ristoranti in tutta Italia un collegamento gratuito ad internet via Wi-Fi. Quindi i clienti di McDonald's potranno, oltre che mangiare un panino, connettersi con un computer o un telefonino dopo essersi autenticati. Sapete che la legge italiana rende obbligatoria l'autenticazione, quindi la tracciabilità di una persona che si collega ad internet, che sia in casa, ma se siamo in casa abbiamo il nostro abbonamento a DSL o comunque un abbonamento ad internet, se siamo in un luogo pubblico, chi fornisce questo servizio deve preoccuparsi della autenticazione, quindi anche del tracciamento di questa persona. L'operazione è molto semplice e molto facile, in questo caso viene fatta tramite telefonino, il che si crea un legame tra la persona che naviga in rete e il possessore della SIM. Sul telefonino arriva una password e quella si può utilizzare per navigare gratuitamente in internet. Ma noi oggi non parliamo di questo tipo di tecnologie senza filo, cioè non parliamo di Wi-Fi, di Hyperlan e di WiMAX, tecnologie che spesso vengono associate al collegamento ad internet. Di queste abbiamo ampiamente parlato di recente, 2024, sicuramente torneremo a parlare. Parleremo invece dei collegamenti wireless di prossimità e di quelli domestici. Lo spunto ci arriva da uno strumento che sta per arrivare anche sul mercato italiano, si chiama Leio ed è un piccolo strumento che viene chiamato Personal Sharing Device, cioè uno strumento personale di condivisione. Si tratta, potremmo dire, di una nuova categoria, di un piccolo hard disk, assomiglia anche ad un lettore MP3, ma non è un lettore MP3, ha un piccolo display. Questo strumento può contenere fotografie, video e in generale file. A che cosa serve e come funziona? Beh, serve per contenere e immagazzinare questi dati e per passarli velocemente ad un'altra persona che ha uno strumento analogo. Ma uno potrebbe chiedersi, non sarebbe meglio, più rapido e anche più comodo magari archiviare questi dati, le fotografie e i video nel telefonino e usare il Bluetooth, ad esempio, che è un sistema che esiste ormai su molti telefonini, quando è necessario trasferire un file ad un'altra persona? Lo abbiamo chiesto a Thierry Brenier, che è country manager di Leio per l'Italia. E che oggi lo che abbiamo visto è che il telefonino che utilizza Bluetooth o Wi-Fi non è un prodotto per condividere, è un player. E oggi non è tanto facile per la gente di collegarsi in Bluetooth. In Wi-Fi la problematica è che necessita un punto di accesso. Oggi utilizziamo una tecnologia che abbiamo trovato, che è l'ultra wideband, che è molto più carina e veloce, 100 veloce che Bluetooth, e 5 che Wi-Fi. E quindi avete sentito, la tecnologia che viene utilizzata in questo sistema è 100 volte più veloce del Bluetooth e 5 volte più del Wi-Fi. Ma per parlare di queste tecnologie e dell'evoluzione che le tecnologie senza filo stanno conoscendo in questi mesi, in questi ultimi anni, è con noi dal laboratorio di PC professionale Simone Zanardi, potremmo oramai definirlo il nostro esperto di telecomunicazioni. Simone, bentornato a 2024. Ciao Enrico, a te e a tutti gli ascoltatori. Dicevo che le tecnologie wireless si stanno sviluppando, ma forse potremmo dire si stanno diffondendo e si infilano in quasi tutti gli strumenti che utilizziamo quotidianamente. Tu, parlando di queste tecnologie, visto che quando ci incontriamo prima di andare davanti ad un microfono facciamo parecchie chiacchiere anche per intenderci e sintonizzarci, tu dici che sta cambiando l'ecosistema. Esattamente, l'ecosistema delle tecnologie wireless. Nel senso che non è tanto un'evoluzione di alcune tecnologie che sono presenti ormai da anni, quanto i campi applicativi di queste tecnologie. Oggi wireless in sé identifica quasi un brand, nel senso che per le aziende che operano in questo settore wireless significa successo presso il pubblico, perché il pubblico cerca il wireless, perché dà una sorta di senso di comodità, di mobilità, che chiaramente il cavo, che per certi punti di vista è nettamente superiore, questa comodità il cavo non te la può dare. Quindi il wireless, come giustamente dicevi, si sta infilando ovunque, perché è garanzia di successo da un certo punto di vista. Quindi non solo nelle reti locali, il famoso Wi-Fi, o nella fornitura di servizi internet, quindi WiMAX, ma anche nell'utilizzo dei nostri cellulari. Bluetooth è un esempio storico, ma come vedremo ci sono altre tecnologie in arrivo, nell'utilizzo degli apparecchi di casa, nel pagamento della metropolitana con il nostro telefonino. Cioè tutte queste tecnologie stanno non solo maturando nei singoli campi di utilizzo, ma stanno occupando nuovi campi del nostro vivere quotidiano. Questo è interessante, ed è interessante anche capire, e da qui vorrei ripartire, che stiamo parlando in realtà di tecnologie che si stanno sviluppando, ma che poggiano su basi che oramai sono vecchie anche di decenni. Poco fa io parlavo di ultra wideband. Di che cosa stiamo parlando in realtà? Ultra wideband è un esempio eccezionale in questo senso, perché il termine ultra wideband risale addirittura agli anni 70 e non identifica uno standard preciso, identifica una tecnica di trasmissione che in poche parole utilizza degli impulsi brevissimi, impulsi radio brevissimi, e quindi per ragioni tecniche si traduce questo in larga banda, quindi ultra wideband, impulsi brevissimi che consentono trasmissioni molto efficienti, ad esempio a corto raggio, con poche interferenze che possono portare ad alte velocità, come nel caso che tu avevi citato prima. Quindi ultra wideband è una tecnica di trasmissione su cui si può costruire tanto, cioè tante applicazioni come quella di cui tu hai parlato prima. Ecco. Molte di queste tecnologie si stanno sviluppando in ambito personale, quindi per le comunicazioni a breve raggio. Nel caso che abbiamo citato, nel caso delle ultra wideband, stiamo parlando di uno standard, e noi insistiamo sempre sugli standard perché avere uno standard è fondamentale. Ad esempio, i carburanti sono uno standard, ognuno può utilizzare la macchina che vuole, però va alla pompa di benzina, fa benzina con una benzina che è comune a tutti. E nella tecnologia gli standard sono fondamentali. Ecco, in questo caso... In questo caso ultra wideband non è uno standard di fatto, è questa tecnica di trasmissione nel corso degli anni è tornata in auge all'inizio degli anni 2000, sono stati fatti vari tentativi per creare a partire da questa tecnica degli standard consolidati per trasmettere i dati a breve raggio, alcuni hanno avuto successo, altri meno, però tuttora non possiamo dire che ultra wideband identifica uno standard. Ci sono diversi standard che stanno emergendo sul mercato, non tutti già approvati, ma che stanno emergendo, che si basano sull'ultra wideband. Ho capito. Questo è importante perché per la diffusione di questi strumenti avere uno standard è fondamentale, perché altrimenti, se io e te abbiamo un prodotto che è basato su una tecnologia proprietaria di quel tal produttore, possiamo parlare io e te, punto. Assolutamente. Poi non si diffonde. La storia è piena, anche recente, di standard, di tecnologie che hanno avuto successo quando si sono diffuse. Bluetooth è una tecnologia relativamente vecchia, è esplosa quando i produttori dei principali telefonini l'hanno adottata in massa. Sì, sono messi d'accordo su tutti i telefonini. Esatto. USB, parlo dell'USB via cavo, poi adesso sì. Studio anche il wireless USB. Perché è successo? Perché è diventato di fatto uno standard, nel senso che tutti i computer, tutte le periferiche sanno cos'è USB. Mm. Ormai anche i telefonini hanno la porta USB. Senti, dicevamo che molte di queste tecnologie si stanno diffondendo in ambito personale, quelle che chiamiamo comunicazioni di prossimità. Che cosa intendiamo? Quando parliamo di comunicazioni di prossimità, generalmente intendiamo comunicazione e trasferimento di dati tra dispositivi che noi indossiamo o comunque che abbiamo con noi. Quindi sì. Il telefonino è l'esempio per eccellenza. Può essere anche la videocamera o può essere anche un piccolo hard disk virtuale, magari come memoria stato solido, per trasferire i dati tra noi e i nostri amici. Comunque quelle che si chiamano personal area network, cioè le reti con estensione alle superfici del corpo umano, mettiamo, sì. Usiamo questo termine. Quindi prossimità vuol dire comunicazione a breve raggio, poi può vuol dire tante cose. La prossimità pura è quella degli RFID, ad esempio, quindi addirittura uno standard di comunicazione che permette col semplice sfioramento dei dispositivi di trasferire dati. Oppure prossimità può essere anche a qualche metro di distanza. Un altro esempio non di prossimità ma di rete personale è Bluetooth. Quindi sì. Diciamo la prossimità vera e propria parliamo di addirittura centimetri. Pochi centimetri, sì. Senti, ma ecco, Bluetooth non è sufficiente? Cioè che cosa si sta cercando di sviluppare? Bluetooth è un ottimo standard per far parlare il telefonino con le periferiche. Ma oppure non tra telefonini e telefonino. Tra telefonini e telefonino, ma nonostante non sia complicatissimo da usare, come tutti quelli che hanno provato qualche volta a accoppiare telefonino con GPS o telefonino con cuffie, non è proprio banale al 100%. Qualche problemino di accoppiamento dei dispositivi può saltare fuori. Qualche cosa si incastra. Esatto. Le tecnologie di prossimità hanno questo altro requisito fondamentale, la estrema semplicità. Cioè, io voglio passare con, mettiamo la mia scheda, sul tornello della TM della metropolitana e voglio poter entrare senza dover accoppiare il dispositivo. Lo passo e entro. Sì. Io voglio poter, ho il mio telefonino, tu hai il tuo, voglio darti una foto, ci sfioriamo i due telefonini e te la passo senza dire autorizzi il passaggio del messaggio. Chiaro che poi ci sono delle problematiche di sicurezza, però il procedimento di base deve essere elementare. Sì, quindi si cerca di andare verso una semplicità. Assolutamente. E queste tecnologie che si basano anche su ultra wideband, che hanno nomi stranissimi, perché se cominciamo a citare le sigle potremmo... Non finiamo. Non finire più. E comunque prima che finiamo c'è qualcuno che ne ha creato un'altra. Esatto, ci sono molti standard che si stanno sperimentando e studiando. Ecco, dicevo, lo scopo è quello di fare trasmissioni ad alta capacità, veloci e semplici. Esattamente. Un esempio, non voglio citare un nome su altri, è il progetto TransferJet, che è stato lanciato da Sony, che adesso è appoggiato con il consorzio di promotori da tantissime case. TransferJet è un protocollo di prossimità, quindi appunto 3 cm, alta velocità, stiamo parlando di 500 megabit al secondo, che punta a questo, al trasferimento di dati tra telefonini, videocamere, stampanti, in modo tale che io possa, ad esempio, un'applicazione pratica, torno a casa con la mia macchina fotografica dopo che mi sono fatto la gita, l'appoggio sopra il mio hard disk o sopra il mio computer, trasferisco tutte le foto, l'appoggio sopra la stampante e la stampante mi stampa le mie fotografie, senza appunto dover stare a fare particolari meccanismi di accoppiamento. Una cosa immediata, sia dal punto di vista della velocità di trasferimento, sia dal punto di vista immediata per l'utente, che non deve compiere operazioni strane. Stiamo parlando delle tecnologie wireless e dell'evoluzione di questo ecosistema molto complesso, molto variegato, di cui utilizziamo ogni giorno mille possibilità, mille sfaccettature, e stiamo parlando dell'evoluzione in modo particolare delle cosiddette tecnologie wireless di prossimità, quelle che ci servono per collegarci con magari un altro telefonino o comunque con strumenti che abbiamo in tasca, fotocamere digitali, piccoli hard disk, eccetera, eccetera. Prima di proseguire, vi ricordo un appuntamento per la prossima settimana. Vi ricordo che giovedì 18 e venerdì 19 SMAU farà tappa a Bologna. Come sapete, SMAU nella sua nuova edizione si è trasformato in un appuntamento che gira l'Italia, che va vicino alle piccole e medie aziende, ai professionisti, per raccontare l'evoluzione tecnologica al servizio appunto delle imprese. Quindi la prossima settimana, giovedì e venerdì, la tappa di Bologna, che sarà l'ultima di questa prima parte dell'anno. Poi nella seconda parte dell'anno SMAU riprenderà, e vi ricordo sempre l'appuntamento, che comunque rimane l'appuntamento principale, a Milano poi in autunno. Dicevo, oggi parliamo di tecnologie wireless con Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale, un esperto di queste tecnologie. Simone, prima tu facevi riferimento al Transfer Jet. Questo è un progetto capitanato e promosso da Sony. Stiamo parlando di che tipo di velocità? 100-200 fotografie che si trasferiscono in un secondo? Assolutamente, parliamo di esempio Transfer Jet, che è ancora lo studio, comunque parliamo assolutamente, ormai siamo nell'ordine del quasi del gigabit al secondo, che si traduce in foto e anche filmati in pochi secondi. Le foto addirittura potremmo dire istantaneamente. Sì, beh, in questo caso ad esempio il transfer jet si capisce bene, insomma il jet è una cosa che va veloce. Assolutamente. Transfer fa riferimento ai trasferimenti. In ogni caso stiamo parlando di progetti o strumenti che in qualche caso esistono già diffusi? Siamo in una fase tra virgolette complicata. C'è tanto allo studio, ci sono progetti e ci sono anche applicazioni reali, come quella che tu hai, di cui hai parlato prima tu. Diciamo che dire che oggi sul mercato esista già uno standard e dei prodotti commerciali fatti da diversi produttori che usano questo standard non è vero. Non siamo ancora a questo punto, ma sicuramente ci si arriverà. Abbiamo citato il Bluetooth, c'è una evoluzione del Bluetooth, non entriamo nei tecnicismi, ma probabilmente, forse, chi lo sa, vedremo tra qualche tempo il Bluetooth 3.0, che è un'evoluzione. Vorrei citare brevemente anche la wireless USB. L'USB è una periferica che utilizziamo, insomma uno standard di connessione tra strumenti che utilizziamo, con il nostro computer, gli hard disk, eccetera, eccetera. In questo caso cosa cambia? C'è solo un'antennina che trasmette? Ma wireless USB è un esempio calzante di come uno standard e un brand possano garantire il successo di una tecnologia. Io diciamo che se dovessi scommetterei su wireless USB per un certo tipo di applicazione. Perché? Wireless USB è un'applicazione, è una tecnologia che sfrutta ultra wideband. Sì. Però oltre a sfruttare ultra wideband, punta su un brand, su un consorzio consolidato. USB è ovunque. Ho capito. Senti, tu dicevi prima, con questi strumenti potremmo sfiorare i telefonini e passare foto, musica, eccetera, eccetera. Potrebbe capitare che quindi io, che ne so, sono in autobus, vado vicino a una persona e trasferisco senza volere alcuni dati? Beh, le problematiche di sicurezza vanno affrontate. Diciamo che quando parliamo di prossimità, quindi di pochi centimetri, parliamo anche di prossimità che garantisce una certa sicurezza. Sì. Più che altro dagli attacchi, nel senso che obiettivamente un hacker che deve venire a 2 centimetri dal tuo dispositivo per poterti rubare dei dati, certo che fa più fatica che uno che può stare dall'altra parte della strada. Sì. Comunque tutte queste tecnologie, tutti questi consorzi, tutti questi standard hanno poi allo studio delle specifiche di sicurezza che poi proteggeranno le trasmissioni, questo è sottinteso. Senti, c'è un altro ambito, abbiamo parlato dell'ambito della prossimità, quindi delle comunicazioni personali. L'altro ambito è quello della casa, quindi dell'ambiente domestico. Qua che cosa sta cambiando? Qui è un altro settore che si sta evolvendo rapidamente, e se noi conosciamo già da tempo Wi-Fi, quindi le reti domestiche, nei prossimi anni, già adesso, ma nei prossimi mesi e anni, assisteremo all'evolversi di tecnologie puntate proprio alla trasmissione audio-video. Quindi dei segnali audiovisivi ad alta definizione, per esempio passare i dati dal televisore al lettore Blu-ray, quindi diciamo sostituire attualmente il cavo che si utilizza per collegare il lettore ottico al televisore, HDMI tipicamente, con un'interfaccia wireless, quindi interfaccia ad altissima velocità, qui si parla di 20-30 gigabit al secondo che nell'arco di qualche metro sostituiscono il cavo e trasmettono ad esempio le immagini senza alcuna perdita di qualità dal lettore Blu-ray che abbiamo sulla scrivania al proiettore che è collegato al soffitto. E chiaramente i vantaggi di usare il wireless qui sono evidenti. Certo. Tu dicevi, ed è una cosa che vorrei risottolineare, che in generale sempre meglio il cavo rispetto alle tecnologie wireless, perché in qualche modo viaggiano nell'aria e l'aria sì, qualche è un problema mezzo condiviso avere, eh? Diciamo. Beh, diciamo che il cavo garantisce prestazioni, perché oggi in quasi nessun campo il wireless ha superato il cavo, prestazioni, affidabilità, perché non ci sono interferenze se non qualche cosa elettromagnetica, e garantisce sicurezza. Il wireless dalla parte sua la comodità, e al giorno d'oggi la comodità conta tanto. Infatti lo stiamo vedendo, ed è per quello che tu all'inizio dicevi che wireless, cioè il senza fili, è diventato proprio un brand, cioè proprio un esatto. Concetto che la gente capisce molto velocemente. Simone, io ti ringrazio. Naturalmente, come dicevamo, non abbiamo citato gli singoli standard, le singole tecnologie, però in ambito domestico possiamo dire che forse sono due le tecnologie che si stanno studiando di più, sì, giusto? Wireless HD e Wireless High Definition Digital Interface sono due consorzi che stanno sviluppando le tecnologie. Ci sono già prodotti sul mercato, televisori Panasonic, Sharp, Samsung, che utilizzano queste tecnologie. Si sta tentando di consolidare un unico standard. E vedremo se le aziende si metteranno d'accordo, perché questo è sempre uno dei problemi. Simone, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, a presto. Enrico, alla prossima. Adesso per noi c'è una breve pausa, le notizie del giornale radio, poi riprenderemo nella seconda parte di 2024, parleremo di fotocamere digitali e in modo particolare del panorama che si sta trasformando. Anche in questo ambito ci sono novità sicuramente molto interessanti, visto che la fotocamera digitale è uno dei prodotti più acquistati tra la primavera e l'estate. Ci sembrava giusto, anche perché molti di voi ce lo hanno richiesto, dedicare uno spazio alle fotocamere. Sta emergendo una nuova categoria che si inserisce tra le fotocamere compatte e le reflex, quelle che spesso vengono definite le fotocamere professionali. Beh, parleremo anche di questa nuova categoria che sta emergendo. Vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile dalla prossima settimana, dal lunedì pomeriggio, anche attraverso il servizio podcast. Vi ricordo che potete scaricare in questo modo settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Ci sono software che permettono la gestione del podcast in modo automatico oppure anche manuale, ma di fatto che vi permettono di scaricare il file, di aggiornare il file della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Il podcast è un nuovo modo per erogare contenuti audio, nel nostro caso, ma naturalmente ci sono anche coloro che erogano contenuti video, quindi il podcast è un nuovo modo, potremmo dire, di trasmettere contenuti in generale. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it e lì trovate tutte le informazioni per abbonarvi gratuitamente al nostro servizio, naturalmente anche con altre trasmissioni oltre che 2024. Seguiteci nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30 oppure online sul nostro sito internet www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024. Il nostro indirizzo digitale è 2024 e radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini e adesso parliamo di fotocamere digitali. Sarà che si sta avvicinando l'estate, beh, di fatto siamo già all'interno e nel bel mezzo dell'estate già da qualche settimana per la temperatura, se non altro, anche se l'estate inizierà dalla prossima settimana ufficialmente. Dicevo, sarà che si sta avvicinando l'estate, ma sono alcuni gli ascoltatori che ci hanno scritto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, per chiederci dettagli, informazioni sulle fotocamere digitali. Allora, oggi cerchiamo di fare il punto anche sul mercato, sulle novità e sull'evoluzione di questi prodotti. Ci aiuta il nostro esperto di audio e video digitale, Gianfranco Giardina. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Dunque Gianfranco, questo è un tema ricorrente perché durante l'estate aumenta la propensione a fare le fotografie, aumentano anche le occasioni per fare le fotografie, magari si pensa anche ad acquistare una fotocamera digitale. Non ho dati, ma immagino che molti dei negozi, sia online che fisici, vendano molte fotocamere all'inizio dell'estate. Sì, la stagione proprio classica delle fotocamere è proprio inizia con la, intorno alla fine della primavera, quindi è proprio lì e dura bene o male fino a ridosso dell'estate. Tutti vogliono partire per le vacanze con una nuova fotocamera. Io sono un utente di fotocamera poco esperto, ci capisco molto poco. Voglio avere un prodotto molto leggero, ho una piccola fotocamera compatta di qualche anno fa a 4 megapixel. Oggi mi sembra che siamo già arrivati a 12, 16, sì, 20 sì, megapixel. Sì, beh, ci sono delle fotocamere reflex da 24 megapixel. Addirittura. Sì, no, ma il problema dei megapixel che all'inizio servivano, ecco, 4 magari non sono una quantità incredibile, elevatissima, sì, no? Per fare, soprattutto se uno vuole fare poi degli ingrandimenti, soprattutto sì, per quello. Sì. Ecco, ma il problema è che poi i pixel, strada facendo, quindi la risoluzione del sensore, è diventato un po' un motivo di marketing prima ancora che un fatto tecnologico. Quindi avere un sensore con molti megapixel, quindi 6, 8, 12, 10, 12, è diventato un fatto necessario per motivi di marketing per posizionarsi in un determinato segmento. In realtà non è solo il sensore, quindi non è soltanto la quantità di pixel che fa la qualità dell'immagine, anzi, posso avere un sensore molto risoluto, quindi a per esempio 10-12 megapixel, ai quali però corrisponde un'ottica che non è in grado di risolvere quel tipo di risoluzione. Quindi perché? Perché il vetro o magari la plastica non è di sufficiente qualità, e quindi proprio le qualità ottiche di quell'obiettivo non sono sufficienti. Quindi io dietro l'obiettivo ho un sensore da 10-12 megapixel, ma l'immagine che mi arriva comunque sarà da 4-5 megapixel. Quindi a questo punto qual è il senso di avere più megapixel? Assolutamente nessuno. Quindi la fotocamera non va scelta sulla base dei megapixel. Certo, bisogna posizionarsi in un diciamo a un livello, no, per il quale si sa che le proprie stampe verranno qualitativamente bene. Do un ordine di grandezza molto molto generico, ma un ordine di grandezza: una foto ben scattata con una macchina con un buon obiettivo da 10 megapixel può essere stampata tranquillamente con la massima qualità fino a un 20x30 come dimensione. Quindi un bel formato. Sì, sì, tanto un foglio A4 più o meno. Tanto per dare un ordine di grandezza. Quindi ecco, se una persona non pensa di andare oltre per esempio questo tipo di dimensione di stampa, ecco che qualcosa di più di 10 megapixel non serve. Forse vale la pena di risparmiare qualche cosa per non rincorrere i milioni di pixel del sensore, ma come dire, reinvestirlo su una macchina che abbia una qualità ottica per esempio migliore, un obiettivo più luminoso, che è un fatto fondamentale perché ci permette di scattare con meno luce e di scattare una qualità migliore. Sì, magari al tramonto una bella foto. Sì, al tramonto, ma anche in interni. Molte volte in interni basta la luce di una finestra per fare una buona fotografia, se la macchina fotografica è sufficientemente sensibile. Se invece non lo è, bisogna comunque far scattare il flash. E le foto col flash, per quanto siano ben illuminate, sono sempre più brutte, più piatte, meno tridimensionali delle foto fatte in luce naturale. Io devo dire che sono abbastanza soddisfatto, nel senso che faccio al massimo degli ingrandimenti, no, non nemmeno degli ingrandimenti, faccio sviluppare foto 10x15, 10x3, non so qual è il formato, ma 10x15 normalmente più piccolo, 13x18. Cioè. Ecco, quindi detto dei megapixel, questa è già un'indicazione utile, dicevi della luminosità, Sì. Esiste un parametro da osservare oppure, beh, immagino di sì. Assolutamente sì. E sulle ottiche, no? C'è scritto sia su quelle rimovibili per le fotocamere reflex, sia sull'ottica che è montata sulle compatte, c'è un parametro che va guardato. Sono due parametri che vanno guardati. Uno è l'estensione dello zoom. Quasi tutte le ottiche oramai sono, sì, sono zoom, quindi hanno la cosiddetta lunghezza focale, che è segnata appunto con una F minuscola, che normalmente è data in lunghezza focale equivalente. Cosa vuol dire lunghezza focale equivalente? La lunghezza focale che quel tipo di obiettivo avrebbe se fosse montato su una fotocamera a pellicola tradizionale, 24x36, tanto per intenderci. Tutto si rapporta al mondo della pellicola perché tutti ormai hanno imparato questi nomi. Quindi l'obiettivo cosiddetto normale, quindi quello che dà più o meno un campo visivo e una dimensione dell'inquadratura simile a quello che abbiamo a occhio nudo, è un 50 mm, ovviamente 50 mm sulle reflex e sulle fotocamere a pellicola. Diventa molto meno sulle compatte come lunghezza focale, ma viene sempre indicato normalmente con 50 mm. Un grandangolo è un 35 mm, un buono, ottimo, super grandangolo è un 28, un 24 mm. Invece salendo di lunghezza focale andiamo verso i teleobiettivi, quindi 90 o 105 per i ritratti, 135 incomincia a essere un tele, fino a salire a 200 e anche molto di più, quindi per fare foto. Cioè, quindi più alto è questo numero meglio è? No, più alto è questo numero più l'ottica è in grado di raccogliere luce. No, di fare inquadrature teleobiettivo, quindi di ingrandire molto l'immagine. Quindi uno dei parametri, dicevamo, è la lunghezza focale. Normalmente, c'è, siccome le ottiche sono zoom, c'è un'escursione. Quindi, per esempio, un'ottica tipo va da 28 a 135 mm di lunghezza focale equivalente, quindi ci dice già che va da un buon grandangolo fino a un buon tele. Sì. Ecco, quindi questo ci dà l'escursione dello zoom. L'altro parametro è la luminosità, come dicevamo, che invece è indicata normalmente con una F maiuscola ed ha il valore dell'apertura massima del diaframma per quel tipo di ottica, che può essere 4.5, 3.6, 3. 2.8, 2.4. Più basso è questo numero, più l'ottica è luminosa. Quindi più la macchina fotografica sarà in grado di catturare immagini con una minore quantità di luce. Quindi questo è positivo, cioè guardare i numeri bassi. Sì, bisogna, questo qui bisogna... è chiaro che un'ottica che ha una luminosità, quindi un'apertura massima, con un numero alto, per esempio 5,6, che è un numero molto alto come apertura massima, vuol dire che quando solo la luce, anche in luce diurna, ma magari se comincia ad esserci un po' poca luce perché siamo al tramonto, perché siamo in ombra per mille motivi, la macchina fotografica sarà costretta a scattare con tempi lunghi. Scattare con tempi lunghi equivale chiaramente ad avere rischi di mosso, sia perché muovo la fotocamera mentre scatto, sia perché si muove il soggetto, che è un'altra... Chiarissimo. All'inizio di questa seconda parte io, Gianfranco, ho detto parleremo anche di una nuova categoria. Tu, prima di iniziare la nostra chiacchierata, mi hai citato le bridge, che sono appunto una nuova categoria che si sta sviluppando molto rapidamente nel mercato delle fotocamere digitali. Allora, da qui, adesso dobbiamo fermarci per un minuto, da qui vorrei ripartire da tra poco per capire che cosa sono, per quali utenti sono pensate queste fotocamere digitali che esistono sul mercato già da un po' di tempo, ma che appunto si stanno diffondendo. Stiamo parlando di fotocamere digitali a 2024 e con noi Gianfranco Giardina, il nostro esperto di audio e video digitale. Dunque, Gianfranco, abbiamo detto e abbiamo citato questa nuova categoria, non abbiamo ancora detto come si chiama. Si chiamano bridge. Che cosa significa? Le bridge sono un mondo intermedio. Allora, facciamo un po' di ordine. Le compatte sono le classiche fotocamere che hanno già ovviamente un'ottica, come dicevamo, zoom integrata, sono molto piccole, dice la parola stessa. Sì. Quando si accendono, normalmente l'ottica viene fuori, si estende sì, automaticamente, perché si ricompatta proprio per avere una sagoma a macchina spenta più piccola. Quindi hanno dei vantaggi chiaramente perché sono piccole, hanno degli svantaggi perché per esempio non sono spesso non sono prontissimi a scattare. Ah sì, cioè, io me ne accorgo, io sono diciamo l'utente di compatte, però capisco che a volte voglio fare una foto e ci vogliono 10-15 secondi. E questo è uno dei parametri fondamentali nella scelta di una buona macchina, problema, cioè capire sì. anche il tempo da spento allo scatto, quanto tempo passa, perché non sempre i soggetti che vogliamo fotografare sono lì che ci aspettano. E quindi bisogna chiaramente avere un gran tempismo. Le compatte poi chiaramente hanno prestazioni molto diverse all'interno di tutte le varie gamme. Ci sono compatte, chiamiamole giocattolo per certi versi, che permettono sì di scattare delle foto, ma non parliamo di qualità, e compatte invece che, pur non sostituendo le reflex nella maniera più assoluta, possono accontentare anche il fotoamatore esigente nelle sue fasi, ovviamente, in cui vuole star leggero, non vuole andare in giro con tutto il corredo, vuole avere sempre una macchinetta pronta per scattare. E quindi all'interno delle compatte poi ci sono tante altre sottofamiglie. Le reflex stanno dalla parte opposta, sono l'evoluzione delle classiche fotocamera pellicola reflex che si usavano molto qualche decennio fa e che sono assolutamente tornate in auge ora col digitale, che permettono di intercambiare le ottiche, quindi sono molto più versatili, hanno degli particolari che sono ancora meccanici, anche se sono diventati elettromeccanici, tipo l'otturatore, lo specchietto che si alza, lo scatto, e sicuramente hanno una risposta praticamente immediata. Dall'accensione allo scatto... Cioè sono sempre pronte, diciamo. Sono sempre così. Pronte. Sì. E poi l'altra cosa molto importante delle reflex, proprio per come sono pensate, è che quando si schiaccia il tasto di scatto, in quello stesso istante... la macchina scatta. Non sempre con le compatte avviene, perché magari deve mettere a fuoco, perché magari si deve ricaricare il flash, cioè ci sono degli altri limiti. Sì. Invece con le reflex questo limite non c'è. In più ovviamente c'è la possibilità di intercambiare tutte le ottiche, di cambiarle, di migliorarle. Il fatto che le macchine siano più generose per dimensioni permette anche che le ottiche siano più generose. Avere un'ottica più grande vuol dire raccogliere più luce, e quindi vuol dire ovviamente poter spargere più luce su un sensore. Ecco perché, qui torniamo al discorso dei milioni di pixel, a parità di dimensioni di ottica, a parità di dimensioni di sensore, è meglio forse in alcuni casi avere un sensore con meno pixel, perché ogni pixel, come dire, ha a disposizione più luce, è un pochino più grande e cattura più luce. Avere troppi pixel, troppi megapixel, perché si parla di milioni di pixel, molte volte su sensori molto piccoli, con ottiche molto piccole, significa dover spargere, come dire, una piccola quantità di luce su molti pixel, e quindi per poter, come dire, impressionare tutti questi pixel, impressionare l'immagine, dover lavorare su quello che viene chiamato il guadagno del singolo pixel, quindi, come dire, viene amplificato elettronicamente il segnale, il che porta il cosiddetto rumore. Le immagini diventano molto granulose, spesso con dei puntini rossi e verdi, sicuramente non belle, molto, sì, molto sgranate. Ecco perché ovviamente in questo caso un'ottica grande, un sensore grande garantisce ovviamente una qualità di immagine migliore. Il contro è evidente, si peso, porta indietro il corredo, certo, soprattutto se uno incomincia a avere qualche ottica, ecco, diciamo che se è in vacanza può essere un problema, insomma, avere... tra questi due mondi, quello delle compatte e quello delle reflex, c'è un ponte, appunto, bridge, cioè è proprio la famiglia che collega questi due mondi e cerca di trarne i massimi vantaggi da entrambi i mondi. Hanno delle dimensioni superiori a quelle delle compatte, ma non così importanti come quelli delle reflex. Un layout, un'impugnatura simile a quello delle reflex normalmente, un'ottica che non è intercambiabile come nelle compatte, però è molto versatile, quindi sono zoom molto versatili, vanno spesso dai 28 mm anche ai 300, quindi diventano dei super tele anche tranquillamente. Hanno quelle ottiche che sono più curate e più generose come dimensioni, quindi hanno il vantaggio di più luminose, catturare anche, più luce, certo, quindi anche più luminose, e hanno delle reattività sullo scatto scatto che assomigliano a quelle delle reflex, quindi schiaccio e scatto. Quindi sono un buon compromesso. Sono un ottimo compromesso per chi, per esempio, vuole avere quel tipo di qualità d'immagine, ma non vuole avere più di un'ottica. Perché se avesse una reflex, comunque non comprerebbe una seconda ottica e non starebbe a cambiarla, magari perché cambia lo scatto, vuole un panorama o vuole un ritratto e quindi si mette a cambiare l'ottica. Chi non ha intenzione di cambiare l'ottica, onestamente non ha nessun motivo importante per adottare una reflex. Potrei pensare di comprare una bridge. Sicuramente è una buona scelta. Io credo che al di là del fatto di avere una fotocamera super compatta da portare sempre con sé per le foto occasionali, oramai la sensibilità alla qualità dell'immagine arrivata col digitale e con le migliori macchine spinga un po' tutto il mercato verso o le bridge o le reflex, man mano che il fotoamatore evolve. È chiaro che un perito assicurativo che deve fare semplicemente delle foto di documentazione, sì, che non ha interesse alla qualità d'immagine, vivrà felicissimo con la sua compatta per tutta la vita. Sì, sì. Senti, i telefonini, visto che oramai la maggior parte, se non tutti, però direi insomma forse il 90% dei telefonini hanno anche la fotocamera, e a volte vengono presentati con megapixel incredibili, alcuni addirittura vantano ottiche incredibili. Ecco, la qualità dei telefonini è accettabile o lasciamo perdere? È molto variabile. Alcuni telefonini è lasciamo perdere, altri si avvicinano a quelle delle compatte, si assomigliano molto, o di alcune compatte. Diciamo che i migliori telefonini toccano le prestazioni degli entry level delle compatte. Sì. Ma tutto dipende evidentemente dalla dimensione di queste macchine. All'interno di un telefonino che già è piccolo di natura, oltre a esserci il telefonino, il display, eccetera, eccetera, c'è anche un'ottica e un sensore. Ovviamente si tratta di un'ottica piccolissima, spesso fatta con materiali non dalle proprietà ottiche entusiasmanti, quindi strutturalmente poco luminosa, no? Proprio perché può catturare pochissima luce, la deve spalmare su un sensore che sicuramente sarà molto piccolo, però insomma non difficile avere una buona qualità, e funzionano bene in situazioni di buona illuminazione, ma non appena la luce è minimamente critica è chiaro che sgranano moltissimo, la qualità viene un po' a perdersi e van bene anche lì, van bene per documentare un momento passando, però quando vedo molti giovanissimi sostituire completamente, no, l'idea della macchina fotografica con il telefonino, certo è più comodo perché ce l'hanno già in tasca, ma in realtà non stanno facendo delle vere e proprie fotografie, diciamo che catturano delle immagini. Sì. Senti, per concludere, tre indicazioni sui prezzi. Sulle compatte forse c'è una gamma di prezzi incredibili, però sulle compatte si passa parte da qualche decina di euro. Addirittura? Sì, l'entry level assolutamente, sì. E si sale ovviamente fino a dei valori anche intorno ai 250-300 euro, che forse non hanno molto senso perché a questi prezzi si cominciano a comprare delle bridge, quindi con tutte le caratteristiche cominciano ad arrivare le bridge e incominciano ad arrivare anche le prime reflex. Ah sì? Sì, proprio l'entry level delle reflex oramai si è posizionato attorno a 300 euro, quindi a prezzi assolutamente competitivi. Per cui le bridge un po' soffrono, no? Perché sono lì in mezzo. Anche se questo chiaramente poi magari molto nasce dalla voglia di avere una reflex digitale, no? Senza però considerare il fatto che magari chi compra una reflex digitale da 300 euro avrà poi probabilmente qualche ritrosia a comprare un'ottica da 1000 o da 1500 euro. Quindi l'architettura delle reflex con le ottiche, che comunque in alcuni casi sono molto costose e intercambiabili, mal si sposa con un approccio che non è da fotoamatore, perché fotoamatore fa grandi sacrifici per comprare la propria apparecchiatura, ma è semplicemente da fotografo occasionale che insomma probabilmente non spenderà il doppio o il triplo di quanto speso per il corpo macchina in ottiche, però può essere un buon punto d'ingresso, perché poi come si sa l'appetito viene mangiando, si comincia a vedere la qualità offerta, e dopodiché magari si sceglie di tenere le ottiche che si hanno e far evolvere il proprio corpo macchina. uno dei vantaggi delle reflex è proprio questo, che sono intercambiabili con, sì, siccome siamo partiti da fotocamere reflex che avevano 5-6 megapixel, poi sono arrivate le 10, le 12, ora le 24 megapixel. Ecco, chi ha già un corredo, chi ha già le ottiche, può semplicemente cambiare corpo macchina, che in realtà rispetto a un buon corredo di ottiche è il minore dei costi, e far evolvere così la qualità della sua fotocamera, cambiando soltanto, diciamo, la parte meccanica, la parte del sensore, ma senza cambiare le ottiche, che se sono buone sono molto costose. Bene, io ringrazio Gianfranco Giardina. Io sono un utente da compatta, da macchina compatta, però sono fortemente interessato alle bridge, che non conoscevo. Ho visto qualche cosa e capisco che quello che ho visto corrisponde a quello che tu ci hai spiegato. E però magari dopo un po' di pratica con le bridge ti verranno voglia di passare, sì, le reflex. Ma infatti questo è un problema. Tu dicevi l'appetito viene mangiando. In effetti io ho parecchi amici che hanno delle ottime, delle bellissime reflex, e quando le prendi in mano effettivamente dici: ecco, questa è una macchina fotografica. Beh, il feeling sicuramente è quello, però al di là di quando prendi in mano è... Sì, la qualità dell'immagine, certo. Questa è una vera foto, ecco questo. Esatto. Bene, grazie Gianfranco, buon lavoro o buone vacanze. Grazie mille, altrettanto a tutti gli ascoltatori. E così concludiamo questa puntata di 2024. Torniamo la prossima settimana, sempre il sabato, nel pomeriggio di Radio 24, tra le 15.30 e le 16.30. Oppure ci trovate anche online sul nostro sito internet. Grazie per la vostra attenzione, grazie anche a coloro che ci hanno ascoltato attraverso il file MP3 che hanno appunto scaricato da internet attraverso il nostro servizio podcast. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete scriverci per qualsiasi motivo, critiche, suggerimenti, domande, per qualsiasi vostra considerazione, 2024@radio24.it. Leggiamo tutte le email che ci arrivano, cerchiamo di rispondere a tutte le email, non sempre riusciamo nei tempi dovuti di una settimana o due settimane, insomma portate un po' di pazienza. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie a Luigi Borghi in redazione, io sono Enrico Pagliarini, vi lascio con gli altri programmi di Radio 24, un buon ascolto e un buon fine settimana. You are disconnected.